Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buona giornata e benvenuti alla mia trasmissione. Se ci state ascoltando la sera alle 20.45 vi auguro un buon fine serata. Subito la mail alla quale indirizzare le vostre segnalazioni: un abuso al giorno @radio24.it. Vi invito anche a visitare il mio blog, si chiama Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore online, oppure ci arrivate attraverso un qualunque motore di ricerca. Come mi avete più volte sentito dire, non prendo in considerazione casi personali, perché ovviamente interessano solo il singolo, ma vi avevo promesso che di volta in volta ne avrei raccolti alcuni tra i più comuni e avrei fatto delle puntate dedicate ai disservizi. E sì, perché gran parte delle mail che arrivano comunque segnalano lamentele nei confronti dei servizi idrici, dei servizi telefonici, più banalmente dei servizi di mobilità, quindi treni. Molte ne arrivano anche per quanto riguarda l'erogazione dell'energia elettrica e del gas, di cui Enel è, come sapete, ovviamente protagonista. E oggi mantengo la promessa, affrontando un caso con la viva voce di una radioascoltatrice, un altro lo prendo come esempio tra i tanti che sono giunti. Intanto do il benvenuto dunque alla radioascoltatrice Barbara Kottavoz da Novara. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. E do il benvenuto anche a Fosco Bellotto, che è il responsabile della customer care, vale a dire della soddisfazione dei clienti di Enel. Buongiorno Bellotto. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, io parto soltanto con, diciamo, la premessa della lettera della nostra radioascoltatrice, che fa un mea culpa. Io da questo paradosso parto dicendo: io e mio marito non siamo riusciti a traslocare nel tempo necessario, nei 5 mesi stabiliti dal contratto con l'Enel, e da lì sono iniziati i nostri guai. Ho riassunto in maniera paradossale, ovviamente, Barbara. Prosegua lei il racconto della storia. Sì, allora l'anno scorso abbiamo acquistato una casa e abbiamo stipulato un contratto con l'Enel, che nel contratto diceva che sarebbe stato un contratto residenti se nei 5 mesi avremmo effettivamente traslocato, e noi contavamo di farlo perché i lavori sarebbero dovuti durare 3 settimane al massimo. Ovviamente la cosa non è andata così, per cui invece di giugno siamo riusciti a traslocare ad agosto, e quindi giustamente l'Enel nella bolletta di luglio ha stabilito la non residenza in modo retroattivo, a differenza di quanto avveniva prima. Ecco, però da lì voi avete cominciato a rincorrere l'Enel dicendogli: non abbiamo rispettato il tempo, ma... Il 18 agosto abbiamo avuto poi la residenza effettiva nella nuova casa dal comune di Novara. Io ho mandato subito via fax i moduli che erano presenti nel contratto dove stabilivo la nuova residenza, e ho allegato anche, tra l'altro, ho mandato anche proprio il certificato di residenza, proprio per spiegare che effettivamente c'era stato poi questo cambio di residenza. Ho mandato subito il fax. La bolletta di settembre era ancora come non residenti, ma effettivamente erano passate poche settimane. Per sicurezza sono andata al punto Enel anche di Novara a far presente la situazione, e mi hanno detto che assolutamente lì non potevano fare niente, che va tutto per call center, cioè via fax o via posta. E lì avete chiamato anche il call center, però non avete avuto il massimo gradimento della risposta, no, o sbaglio? Nel senso che a novembre, quando è arrivata la nuova bolletta, noi abbiamo atteso fiduciosi, ma era di nuovo come non residenti. Ho rimandato la lettera con i documenti, e come mi avevano detto al call center, una prima volta subito dopo il fax, e poi dopo questa bolletta a novembre io ho richiamato il call center, i quali mi hanno detto: a noi non risulta ci sia una pratica in questo senso, mandi di nuovo la documentazione e poi faccia al limite come fanno gli altri, cioè faccia scrivere da un avvocato. Mi sembra un po' paradossale. Io la interrompo qui, Kottavoz, per passare la linea a Fosco Bellotto. Allora, lei ha ricevuto la mail, ha ascoltato dalla viva voce della radioascoltatrice la storia. A cosa è addebitabile, diciamo, il successivo ritardo dell'Enel nei confronti del ritardo conclamato e riconosciuto dalla nostra radioascoltatrice? Trattiamo questo caso anche perché chissà quanti ce ne saranno di casi simili, di tempi non rispettati nel cambio di residenza. Prego Bellotto. Sì, Allora, buongiorno a tutti. Allora, il caso citato dalla signora Barbara riguarda la richiesta di un nuovo contratto ad uso domestico residente, pervenutoci a dicembre 2007. In questi casi noi applichiamo da subito una tariffa residente, dando 5 mesi di tempo al cliente per documentare tale residenza. Come anticipato dalla signora Barbara, nel caso specifico, dopo 5 mesi noi abbiamo sollecitato a mezz'ora comandata la documentazione al cliente. Passati 7 mesi dalla data del contratto, abbiamo applicato al cliente la tariffa non residente, recuperando anche il pregresso. Sì, però abbiamo ascoltato la radioascoltatrice che diceva che comunque non appena sono entrati nella nuova residenza hanno immediatamente a voi comunicato il suddetto cambio di residenza. Sì, io mi scuso per l'inconveniente con il punto Enel e spero che non ci dobbiamo come clienti mai rivolgere ad un avvocato, però a me risulta una documentazione pervenuta a novembre 2008 datata e firmata dalla signora Barbara, poi probabilmente ce n'erano anche altre, mi scuso se 17/11/2008, e certificava la decorrenza della residenza da agosto 2008. Abbiamo da subito applicato la tariffa residente e nella prossima fattura, perché arrivando a dicembre la prima fattura utile è gennaio, ma non è stato possibile inserirla in quella di gennaio, nella prossima che sarà marzo, la signora avrà anche il ricalcolo dal periodo da lei dichiarato. Ok, quindi a marzo, diciamo così, che a marzo il caso sarà risolto, dico bene? È già risolto, bene. Allora io a questo punto vorrei sentire la Cottavoz se effettivamente la ricostruzione la convince anche nei rapporti con l'Enel. Allora, io vorrei precisare che a voi risulta una comunicazione del 17 novembre, io però avevo già scritto una lettera precedentemente e un fax inviato sempre al vostro call center, al numero che è indicato nel contratto, quindi... Ecco, quindi voglio dire... Queste comunicazioni che fine hanno fatto, mi chiedo. Ecco, allora questo... E poi al call center, al punto Enel qui di Novara, io sono stata in coda 2 ore... e mi è stato detto che da qui non era possibile fare nulla. Ecco, allora è chiarissimo, infatti già prima appariva questo chiaro, vale a dire che c'erano stati parecchi tentativi di comunicazione con l'Enel. Bellotto, allora, come dire, qual è la strada certa per mettersi in contatto con voi ed avere contezza del fatto che la comunicazione vi arrivi? Sì, noi abbiamo un numero verde dedicato con una struttura ad hoc proprio per tutta la documentazione. Eh sì, ma se rispondono faccia scrivere da un avvocato, il punto non serve a niente. No, questo è grave e accerteremo questo fatto, visto che la signora Barbara gentilmente ci ha indicato anche il punto Enel, cercheremo di capire come mai è stata data una risposta del genere. Certo. E questo me ne occuperò di persona a verificare il tutto. Mi dispiace che la signora Barbara non ci abbia rimandato i documenti datati anche con la data precedente, perché quello che abbiamo noi è proprio firmato con data 17. Certo, certo, è l'ultimo. Comunque che vi è giunto. Comunque sia, noi nella fattura di marzo abbiamo rifatturato tutto con la tariffa residente dalla data che la signora ci dichiara. Benissimo. Agosto. Benissimo, quindi questo ovviamente è corretto e sono sicuro che vi comporterete così nei confronti di tutti i radioascoltatori che avranno avuto casi simili, perché l'impossibilità di subentrare in una residenza in un tempo dilatato rispetto a quello segnalato nel contratto suppongo che sia una cosa che ovviamente non colpisce soltanto la nostra radioascoltatrice, ma chissà quanti di quelli che ci stanno ascoltando. Bellotto, dicevo che nel mazzo dei disservizi lamentati nei confronti dell'Enel abbiamo pescato anche un'altra lettera che le abbiamo mandato, come sempre i nostri radioascoltatori sanno, io mi comporto, che è quella del radioascoltatore Bernardo Pestellini, che ci ha scritto dalla Toscana, non ha indicato bene da quale città, ma si capisce, ecco, di Firenze, non lo leggo in questo momento. Allora lui dice, ma è possibile che per una voltura da uso commerciale ad uso abitativo, per una fornitura io debba pagare 173 euro? Allora, che cosa risponde al nostro radioascoltatore Bellotto? Sì, il caso del signor Bernardo riguarda una voltura su una vecchia fornitura. La voltura ha un costo di 50 euro. A questo va aggiunto il deposito cauzionale, il bollo contrattuale e l'IVA. Nel caso specifico, oltre al costo della voltura che è di circa 80 euro, il cliente si è trovato preventivato anche il costo di adeguamento potenza. Cioè, oggi i clienti possono scegliere tra degli scaglioni di potenza definiti e la minima potenza prevista è 1,5 kW. In questo caso la fornitura, essendo datata, aveva una potenza non unificata di 1 kW. Quindi, oltre la voltura, c'era anche il costo dell'integrazione di potenza, dell'aumento potenza. Ho capito, benissimo. Allora, io la ringrazio per la sua chiarezza e anche per il fatto che si è impegnato a risolvere il caso della nostra radioascoltatrice, ma ripeto, è un caso simbolo di migliaia. Barbara, è soddisfatta della risposta? Direi di sì, anche se fa specie che ci vogliano 6 mesi perché lei nel registro un cambio di residenza. Mi chiedo come mai non debba essere il comune, come ad esempio avviene con la motorizzazione, a comunicare agli enti a quando avviene un cambio di residenza. Questa è una gran bella domanda. Le pubbliche amministrazioni o comunque le amministrazioni che insistono su un territorio dovrebbero parlarsi molto di più per via telematica, senza dare incombenze inutili al cittadino. Io ringrazio la nostra radioascoltatrice, ringrazio ovviamente anche Fosco Bellotto, responsabile della soddisfazione del cliente dell'Enel. Roberto Galullo dice grazie in regia, ovviamente anche a Filippo Aureggi, in studio Laura Faggin, e vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno. We'll be right back.